ايه ده؟ الصفة الوحدة اللي انا بقيتها شباب، الصفة الوحدة Que quer que o que nos sofreu a doença, merece que a gente não tome a sua puta morte. Nos quer que não vá de mim. Acho que ela vem morar no verbo de Deus, ele vem para mim, a encontrar a... Thank you. den Bauern von der Gesinnung ist weg. Weil ich mich wehre, ich bin in dir an. Ich gehe dazu an. Was ist da, was ist da, was ist da, schon mal los, dann sind wir rein. Dann wird die Gäste nicht frei. Ein Autofeuer, ein Autofeuer, alles hat sich genau nicht in der Kalendatur, weil die beiden Menschen los. Und alle, das ist alles, das ist alles, das ist alles, das ist alles, das ist alles, das ist alles. Ja, und wenn wir nur ein, wir haben es. Und wenn wir nur ein, wir haben es. Und wenn wir nur ein, wir haben es. Und wenn wir nur ein, wir haben es. Und wenn wir nur ein, wir haben es. Wir haben es. Schon muss es sein, nicht, und wir wollen es auch so. Und jetzt, weil wir nicht nur ein, wir sind, und wir können anders, dass wir das nicht haben. Und wir sind alle, dass wir nicht mehr haben. Und wenn wir uns auch schon nicht haben, dann kommen wir. Und wenn wir dann haben, dann haben wir. Und wenn wir dann haben, dann haben wir. Wenn wir auch schon nicht mehr schon mit den Zahlen so sogar zusammen. Vielleicht? Vergiss die ganze Zeit. Ich bin eine, ja, nicht in der Mauer. In der Mauer, ich glaube, ich bin eine, ich muss was zu sagen. Ich bin auch zu gehen, wenn die Leute einfach die Kunst der Zahlen zu tun. Hey, gerne. Ha? Und gerne? Lachen. Ja, und dann gerne, der ist schon weg. Ja, und dann gerne, ich bin weg. Komm mal gerne lachen. Ja, und dann gerne. Sind Sie wohl verbringen? Ah, meine Herren, sind Sie wohl verbringen? Wir tun Schutz in der Welt, heil, und wir tun die Verlösung von Sie, sondern die Herren nicht erwarten. Wir erfüllen die Herren nicht, aber wir werden die Wagen. Sind Sie wohl, wir wollen die Verlösung von Sie, aber wir sind auf der Herren, wo wir die Herren nicht feiern. Ich bin ah, meine Herren, dann los vom Wagen. Los vom Wagen, los vom Stil, los vom Skeletor, los vom Wagen. Ich bin ah, Sofort, mein Bruder, setzt er ein Schiffsfenster, geht in der Welt, aber auch länger. Wo er kann, sofort, mein Bruder, ihnen. Bis zwei Uhr nach, wir wollen uns nicht heilen. Wenn er die Liebe mit dem Kinder und den Jungen verwischt, er wollte die Liebe mit dem Jungen heilen, zu sein, ohne den Druck, dass er schon alle Eltern in seinem Leben. Von den letzten Jahren, im Mund, im Mund, mit Gern und Gern und Gern und Gern, jeden Fall, was ist es heilen? In den Tagen, für wen, und zum Mund ist er hier, wie tun Sie in Jemen? Wo er fallen, für wen wir uns rufen, für wen in Jemen? In den Teilen. Wenn wir den Mann, wenn wir dann, ist immer auch auf der Nächsten von Zuhof ein Verweg. Ist immer auch auf ein Wort, sondern von Sie von Zuhof ein Verweg. Von Sie von Zuhof ein Verweg. Nutzen wir nicht nur von der Schicksal, mit seiner Hand, das ist die Mutter öfter immer, die Kerne von der Schicksal hat das Mutter, Thank you.

يشوف الوقت يلاقي chi sta sul piede del regno nella parola di cui si è capito secondo te. Ok? Ma se si sta fuori, si sta imparando a lei. Come ha fatto su quella di lei, ha tutto quello che posso. Se si sta imparando a lei. Solo? E lei ha solo. Si sta imparando? Si sta imparando? E lei? Mi dice Dio, non ci arriva, ma è ecco che sarà finito, allora faccio tutti da giù a me. Se mi sentite che sarà a casa di lì, si vede che è bello. E tu mi dici, invece che a casa di lui, invece che scegliere di fare cosa di lui. Se vuoi fare una, non vuoi fare niente di te. Se lei, se mi sarà finito, io faccio tutto tuo, se lei non vuole che mi dica, è una cosa di molto più forte, lei ha molto più forte di lui che fa cosa di lui. Vediamo, quale scena, però qui si viene una scuola che dice non si può scrivere il figliore in maniera che non sia stato un per lui. Se gli dici dai, lo lasciare, allora si può scegliere. E lì c'è il mondo, si può dire che non si può scrivere. Non posso andare avanti. Lasciare per questo. Lasciare per l'altro. Quello che vuole che si sia andato, lo deve dire di Gesù, ma io lì, quindi, la mia, se sei un rosso, non la vedi lì. Questa parola, se ne è un dono, vuole, non so se lo è, ha un comando di tutti i figli, però, no, c'è di nuovo, c'è di nuovo. Ha un suo, non vuole che lo vedi mai, non vuole che lo vedi mai. Ha un comando, ha un figlio, da te ne rimani lì. Questa parola, quello di me, se sei un rosso, non te la vedi lì. Quello di me, se sei un rosso, di nuovo, quello che volete prendere la roccia a tua madre della vita. Se voi volete fare un po' di volere, quindi volete fare un po' di volere, quindi volete fare un po' di volere, non c'è la roccia, non c'è la roccia, non c'è la roccia, non c'è la roccia, non c'è la roccia, non c'è la roccia, non c'è la roccia, non c'è la roccia. E se non riesce, se prendo la roccia, sono un posto che mi viene poco. Mi dice, come mi rimane, così, sono vedi, ma tu sei la roccia, la roccia, non c'è la roccia. Sono un posto che mi viene, ma e se vieni in quella venire, se vieni in venire, non vorrà qui, se posso comprare. Quello che deve dire, quello che ti faccio credere, quello che ha dovuto credere per chi, quello che ti fa credere che fanno parte di lui, ti sarei di tanti di qua che lei, quello che lei ha di più, ma quello che è già, di essere lui, a un interno di lui, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro di qua, di un altro. Sarei passato a posto di mio fuoco, non ho mai lì, andò a tutto il mio cuore, da lei. Zero. Signore, in tutto il mio favore, ci sento un rosso. E lei sa che lei, per Dio, la sua venire, andrà a tutto il mio giorno. E la sua venire, la sua venire, ci sento un rosso. E lei, chi lo ha venire? Chi? E la mia venire, la sua venire, la sua venire, la sua venire. E lei non è tua. Che vuole che sia il loro? Di cui non si è vista il credo. Lei dice, non tu è, lei dice, perché non è giusto? Io ti dico, perché tu non so, io ti dico, non so, io ti dico, mi sembra, mi sembra che sono un po' me. Anche la padre si dice, a un terreno, la sua madre, non si, a non si può fare, ma dice, non si può fare. Cioè, se non è, si dice, non so, le parole di lui per te, non si, non è che sì, però la mia scuola è anche per essere, mi sono venuto a fare di mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, mi sono venuto a fare di lei, anche se non si può fare niente, non si può fare niente, anche se non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, per essere guardi in meno. Vediamo, ciao, sono qui in meno, io non si può, sono qui in meno, guarda, vediamo, ciao, sono qui in meno, non si può, sono qui in meno, guarda, ho fatto, e dai, come si può fare la stessa. Come prima, non si può, non c'è la domanda di prima, non c'è la domanda di prima, e va a uscire, che non si può fare, non si può fare, quindi non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si Thank you.